5 Cipo. Quindi alias Simone Ceccanti e Fabio Cipollini, entrambi di Vinci, entrambi classe 92. Dal 2011 diciamo che ne hanno fatto di strada, 3 album, la partecipazione nel 2014 a X Factor e conclamati dalla stampa come i veri protagonisti del talent di quell'anno, 4 milioni di views tra l'altro per la performance di Vacca Boy alle audition e un tour anche di 100 date in un anno. Ora presentano Straordinario, il 4º disco in studio di Cecco e Cipo, e stanno appunto portando in giro per l'Italia e verranno a Bologna all'indimenticabile Festival il 12 luglio. 8 brani che tratteggiano un nuovo percorso dove l'amore è protagonista e dove il gusto per le atmosfere folk e cantautorali incontra quello per il rock e il pop più ritmato dalle influenze british. Quindi non ci resta altro appunto che dare il benvenuto ai microfoni di Radio Città Fucico a Cecco e Cipo. Ciao ragazzi, come state? Salve, salve a tutti. Ciao. Salve a tutti. Ma io, ok, io inizierei subito a dirvi, innanzitutto avete fatto tantissime cose e siete arrivati al 4º disco, quindi come è stato lavorare a questo ultimo progetto? Allora guarda, l'ultimo disco è stato, ci siamo staccati un po' dalla nostra casa, perché i nostri dischi precedenti li abbiamo registrati tutti a Montelupo, insomma Firenze, vicino Firenze, con la nostra vecchia etichetta. Adesso abbiamo cambiato anche squadra, abbiamo cambiato, abbiamo cambiato produttore artistico, ci siamo spostati un po'. Questo disco l'abbiamo fatto nell'estate molto calda dell'anno scorso a Milano, che si bolliva molto. Immaginiamo. Però, sì, anche perché era proprio la settimana di Ferragosto, quindi perfetto, quindi il periodo ideale, on fire, esatto, il periodo ideale per registrare il disco. E al di là di questo, in realtà è stato molto molto bello e anche molto nuovo, perché è stata un'esperienza, anche il modo di registrare il disco è stato diverso, molto in presa diretta, e infatti non per questo il disco è stato fatto in 2 settimane, ed è un disco molto più rock, aveva bisogno di far ballare un pochino, sempre parlando d'amore, ma di far ballare un pochino di più i nostri fan, e quindi siamo andati un po' sull'elettrico. Ho capito, ma quindi è vero proprio che l'avete fatto in 2 settimane? Perché avevo letto, cioè già col caldo, in 2 settimane deve essere stata un'operazione da uscire di testa. No, ma proprio perché c'era caldo. Ah, ok. Prima lo fate, meglio è, più o meno. Esatto. Perfetto, grande. E quindi, una domanda, cosa collegano tutti e 4 gli album? Cioè, c'è la spensieratezza, l'amicizia, l'amore per la musica, o insomma... Hanno un filo conduttore tra loro? Io penso che il filo conduttore sia le storie di vita quotidiane, perché c'è un po' di tutto quello che ci accade intorno tutti i giorni, a Cecco e a Cipo. Sono storie appunto personali, ognuno scrive le proprie canzoni. Non scriviamo mai a 4 mani, ognuno scrive Okay. E quindi penso un po' che il filo conduttore sia questo appunto. L'ultimo disco in realtà è calato molto più degli altri sull'amore, ma quindi non è stata una scelta, non è che volevamo fare un disco d'amore, che non lo so, ci è venuto più così. Però diciamo che dei testi in questo vostro ultimo lavoro Straordinario forse ha una consapevolezza maggiore, magari non una maturità, perché appunto magari parlare di maturità artistica è un po' anacronistico, perché pensiamo ogni album esatto, porti a qualcosa di nuovo, però forse ha una consapevolezza maggiore? Sì, forse siamo... Sì? Può darsi. Credo di sì. Di sicuro siamo cresciuti, anche ora non maturati, però siamo cresciuti perché no, insomma il primo disco abbiamo registrato quando avevamo 18 anni, adesso ne abbiamo 27, quindi siamo anche un pochino cresciuti, quindi cerchiamo di arrivare più al punto, ecco, anche le canzoni, forse per quello. Ma più che altro magari anche nei primi dischi si sentiva più le influenze dei cantautori che ascoltavamo, che ascoltiamo ancora, ma che ci hanno permesso, diciamo, di intraprendere questa carriera artistica, mentre negli ultimi lavori abbiamo cercato sempre più di metterci del nostro, anche a livello artistico. Sì, ecco, musicale. Forse si sente di più che è un disco di Cecco e Cipo, e non magari quando ascoltavi i nostri vecchi dischi dicevi ma guarda questo brano qui mi ricorda un sacco un pezzo di Rino, invece in realtà questi brani qui ti ricordano noi e basta. Cecco e Cipo, quindi avete magari ricostruito e scoperto forse una vera e propria identità artistica. Beh sì, ci stiamo provando e chi ci viene anche stiamo lavorando molto anche sul suono, perché questo disco avevamo voglia di fare un disco un pochino più rock, l'abbiamo fatto rock, magari il prossimo non lo so, vogliamo fare un disco reggae, facciamo un disco reggae, perché non siamo ecco molto lineari su questa cosa, perché crediamo che ogni canzone, ogni disco ha una vita a sé, un percorso a sé, quindi non so, ci sono molti artisti che hanno una linea ben precisa, un carattere ben preciso, noi invece non lo so, dentro un disco puoi trovare anche più generi. Più generi, sì. Beh, una contaminazione di generi, sperimentazione che secondo noi funziona molto bene. Beh, grazie. Grazie, sì, anche secondo noi. Quindi avete detto che vi siete appunto spostati sul rock, e quindi scommetto che live suonano molto bene, no? Questi 8 pezzi. E il vostro tour è già iniziato, e appunto abbiamo detto che venite a Bologna il 12 luglio. Siete carichi? Anche perché è un grande festival che comunque quest'anno arriva a Bologna, l'Indimenticabile. Siamo molto molto contenti e onorati di essere in quel meraviglioso cartellone, e non vediamo l'ora, in realtà non vediamo l'ora, perché sono, diciamo, abbiamo quest'anno faremo molti festival e siamo molto contenti di questo. Negli anni passati abbiamo già rifatto festival, ma facevamo anche un sacco di sagre e feste di paese. Quest'estate invece faremo diversi festival, e questo è uno dei più grandi, quindi siamo molto contenti. Ma poi il disco è un disco fatto principalmente da suonare live, è pensato proprio per suonare live con gli strumenti solo della nostra band, quindi non vediamo proprio l'ora, siamo molto contenti. E quindi non so se ci volete raccontare un po', se avete già preparato la scaletta, se siete avete già deciso cosa suonare, sarà un mix dei vostri quattro album, principalmente porterete l'ultimo, sapete già come vi muoverete? Sì, diciamo, la scaletta è un mix dei nostri quattro album, diciamo, ma che metteremo le hit storiche, dice che Cipo racchiuse in un concerto, non so, perché in realtà non sappiamo quanto suoniamo ancora. Ok. Se suoneremo 40 minuti, un'ora, ancora non sappiamo bene, però sicuramente saranno i pezzi che vanno dal primo all'ultimo disco, quindi sicuramente ci farete ballare e divertire, noi ci saremo. Sì, appunto, dicevo, privilegeremo anche non so come si dice di preciso, comunque daremo più spazio forse ai pezzi nuovi. Perché okay. È giusto così. Sì, giustissimo. Sì, esatto. Anche perché era un po' che era più di un anno, eravamo spariti un po' per registrare questo disco, ci abbiamo messo un po', cioè il disco l'abbiamo fatto in 2 settimane, però per scriverlo ci abbiamo messo un po', e quindi abbiamo tanta voglia di suonare, di far sentire le nostre cose nuove. Beh, bene, e quindi come vivete, no, lo stare sul palco? Cioè avete, ad esempio, noi ci piace un po' l'immaginario di chi suona dal vivo e chi fa i dischi, e quindi chiediamo sempre se avete una storiella da raccontarci, un aneddoto divertente, di qualcosa successo di divertente, tra cui, cioè, io mi immagino le scene anche per produrre il disco in 2 settimane, no? O anche live, se avete qualcosa. Per raccontare gli aneddoti dei live penso ci sarebbe da stare una giornata, perché ne succedono veramente di tutte. Sì, poi abbiamo una band molto particolare, molto simpatici, diciamo, ma sono anche molto molto strani e a modo suo, quindi ogni volta succedono sempre cose molto strane, ogni volta siamo in giro, calcolando che insomma in questi anni abbiamo fatto più di 300 concerti, un po' di così certo. effettivamente. Non lo so, ecco, una cosa che mi ricordo, beh, la prima che mi viene così che chiedemmo ai promoter di farci trovare, in realtà, perché era una serata che prendevamo in giro tutte le band che richiedono sempre un sacco di cose. Okay. nella scheda tecnica, che richiedono sempre un sacco di cose anche nel camerino, no? Ci sono gruppi che richiedono tipo 30 birre, 15 bottiglie di vino, 77 asciugamani, 80 bottiglie d'acqua, no? Un sacco di cose assurde. E noi una volta abbiamo chiesto 2 galline vive. 2 galline? Sì, l'unica richiesta che avevamo erano 2 galline vive. E ah, vive? Perché, sì, vive. E la cosa figa è che siamo arrivati al concerto, al festival, e ci hanno fatto trovare proprio 2 galline. Fantastico. E poi sono rimaste a pascolare lì per tutta la durata del festival, che è durata tutta una settimana. Bellissimo. Beh, sicuramente credo che sarà stata una delle richieste più particolari e fantastiche che abbiano mai ricevuto. Beh, non lo so, no, io non lo so. Beh, di sicuro l'aneddoto più interessante che ci è stato mai raccontato. Esatto, questo nella nostra stagione di Fujiko Factory è un grande aneddoto, effettivamente, perché è una cosa che non penseresti mai. Fantastico. Tra l'altro noi, vabbè, innanzitutto volevamo ringraziarvi per la simpatia, perché oggi è la nostra ultima puntata, quindi anche per i nostri ascoltatori volevamo portare un po' di simpatia, e voi sicuramente ci siete riusciti, poi con l'aneddoto finale ancora di più. Oh, vabbè, no, grazie, ma anche voi siete, cioè, sembrate molto simpatici. grazie. Quindi noi ricordiamo ancora ai nostri ascoltatori che voi sarete a Bologna ad Indimenticabile Festival al 12 luglio. Come avete detto, sarà per voi un'estate piena di date, principalmente in festival, però questo sarà appunto quello più grande e importante. Noi siamo ben felici che saremo, insomma, anche noi sotto il palco ad ascoltarvi. E intanto noi ci ascoltiamo Tutto il bello che c'è, che appunto è il vostro primo singolo dall'ultimo album Straordinario. Grazie mille, ragazzi. Grazie a voi. Buona estate, buon tour, e buon ci tutto. Vediamo a Bologna il 12 luglio. Ci si vede a Bologna. Ciao. Ciao ragazzi.